rimettilo più basso, sennò è troppo assordante. Ma infatti io ho deciso di lasciarlo così, poi se quello che usa Tonino lo usa a 3 o a 4, a me non mi interessa. Io lo uso così, mi sono ascoltato, le prove le abbiamo già fatte e ce n'è in abbondanza, Luca. Cosa devi... non è che per avere la modulazione uguale agli altri devo tenere la maletta. Ma credimi che spinge uguale all'altro, non cambia niente, io li ho aperti a suo tempo perché volevo proprio rendermi conto. Le capsule sono rotonde, grandi, tutte e due uguali. Il circuito di preamplificazione è uguale perché la sede è uguale, non cambia niente. L'hanno voluto sponsorizzare, chiamarlo Super Siderick, e hanno fatto la sede della capsula cromata, basta, non c'è altro di differenza. Sì, è KK, no, Massimiliano, a me è in positivo. Vabbè, poco fa ha fatto qualche passaggio in negativo, non lo fa sempre, a volte però, va in negativo. Ma vedi l'importante Santiago Novi? Massimiliano, hai visto quello che ti ho mandato adesso? Quell'altro tamer? No, l'ho visto, ma quello non c'ha neanche il pomellino per alzare l'amplificazione. Ah, io non avevo che sia importante, ragazzi. Quando parlate vi portate appresso un fischio, ma non si può andare avanti così. Vai a 95, dai. Io ci sono. Vai a 27.095, io. Allora, attento 10, c'è qualcuno? C'è qualcuno su 10? No, vabbè, ma magari sto controllo di segnale radio, per cortesia. 9 più 10, segnale radio 5, chiara, pulita. Ma la radio va bene, Roberto. Benissimo, un po' più di 9 più 10, sì. Grazie, Roberto, dai, riprendo il video che stiamo andando qui, altrimenti sta a che radio è poi? Roberto, sì, sì. Eia, ma c'è qualcuno fuori band? Non lo so. Ascolta, e io il segnale come ce l'ho. Riprova, guarda, vedevo 9 3 proprio. 9 più 20, sono 27.095, c'è cioè Luca e Massimiliano. Sì, 9 più 20, la prima volta come ti arrivava? Mi sta sbatterando le cose, è troppo largo Massimiliano. Aspetta un attimo, vi dico cosa sto combinando. No, sono 27.100. Cacchio, mi sposta di 25 kHz, si sente di splatter. Gianni. Oh Roberto, ti ricordi le altre volte come ti è arrivato? Aspetta, Gianni, Sandro, mi aiuti? Ehi, alza. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santiago 5 Radio 2. Sei 9 e 3 Radio 5 a bomba. Ah, stavo scherzando. Stavo facendo senza proprio. Sì, Ma non ridere, ciò. Siamo qua. Io sono di nuovo qua, vediamo se c'è l'importante. Io la verità l'importante io non l'ho sentita, forse magari la metteva non la parla voi e buh. No, Santiago no, magari a te manco da arrivi, però lo sai dove sono io Massimiliano. Io percepisco quasi la mosca volare, quindi. E quando parlavate voi la passavate tranquillamente, però vi portavate appresso questo fischio. Capito? E quindi mi dava fastidio tutto qua. Vicino a te allora, no? Non lo so, può essere da qualsiasi parte lui. A me Santiago Novi mi può arrivare in qualsiasi zona. Anche Alghero mi arriva a Santiago Novi a me. Il segnale più piccolo. Se no Alghero mi arriva in Antesassere a me. Anche il segnale era 9.10, 9.15 io c'ho da Alghero, quindi. Capito? Può essere da tutte le parti, purtroppo una zona. Cosa volete mi dica? Io non so cosa dirvi. Non posso dire che la Sassari o qui vicino a me, da tutte le parti può essere, però mi dava fastidio. Sono rientrato io. Vabbè, dai, lasciamo fuori bianco. Magari vuole entrare qualcuno, va? Ok? Non ripeto nessuno. Andate, ok, vai Luca. Non c'è nessuno che vuole entrare. Io ho detto che sono rientrato, non so se mi avete ascoltato. Sì, ti abbiamo ascoltato, riprendi, riprendi. Chi è arrivato? Massimiliano, Luca, Claudio, io. E si conferma. Ti piace questa modulazione, non basci? Sì, ascolto benissimo, con cosa sei per te? Sempre con Galaxy e il Tone più 3, Tone più 3B. Ah no, pensavo avessi cambiato, non va bene, va benissimo. Cappa, mi senti cupo, perché Luca mi ha detto mi sentiva cupo, ma non credo, c'è abbastanza acuti questa radio. No, no, vabbè, magari c'ha Mario un po' leggermente effetto camera, forse c'è la camera tanta vuota, ma la voce è chiara e pulita, non posso dire niente. Sì, senza vuota non è vuota, c'è anche la finestra aperta, figurati, la porta aperta. Se chiudo allora già la senti la stanza vuota. Avanti Massimiliano. Vabbè, io qua sta comando bene, qua mi... sta muttendo. No, no, ti ripeto, qua mi arrivo abbastanza bene, va? Ok. Qua sicuramente sentirete il rumore di ventola, ma per la tua pellet. Sotto papetro. Cosa, Luca? Sotto papetro. Ha seduto in passato, non ci disegni, ma non ci vede, non ci vede. Brava. No, non mi piace sta radio. Diciamo che c'è un microfono. Appunto. Che microfono hai messo? Hai messo il Master Pro. Il Master Pro. Non mi piace con quella radio. Il microfono mi piace, l'SM20 e lo Shure. Boh. Non ti piace con questa l'aspetta che cambio? No, la sento impastata, no, ma si vede. È un pochino, forse vuole un po' regolato, va. Quindi non c'è nessun altro oltre a noi in questo canale? No, io non sento altro nessuno. Avanti chi vuole entrare nel canale 10. Vabbè, come vedete c'è qualcuno che non vuole entrare, o se è in ascolto, cosa vogliamo dire? Non so cosa dire. Ok, e basta, che argomenti ci abbiamo per parlare, se qualcuno ha qualche novità? Io non ho nessun argomento, ma ci vediamo. No, stavamo parlando un po' la verità dei microfoni, dei costi dei microfoni, questi parlor, eccetera, eccetera, va, che sono un po' troppo elevati, con il discorso che avevano prima. Intanto ce lo fanno pagare perché sanno che un microfono riesce bene, funziona bene con quasi tutte le radio, e a livello di MC60 mi è arrivato il Tanner usato. E mi pare un bassamburo l'MC60, ma io ripeto, non comprerei mai un Tanner più 3 a 120, 130, 150 euro. Il prezzo del Tanner è dalle 80 alle 100 euro e basta. E si deve fermare lì, perché è così. E io lo so, purtroppo poi conviene trovarne Mario uno originale, però Mario un po' di verniciatura rovinato, dai, e spenderci qualcosa sopra e metterlo a posto. Guarda, questo è un Tanner più 3B, nuovo, ok, nuovo, fiammante, capito? Stato pulito, lucidato, ma la vernice è originale, con tutte le sue scritte originali, è bellissimo. La capsula originale, il cavo originale, e funziona benissimo, capito? Quindi si possono provare, certo, però per 100 euro questo microfono è perfetto, il suo prezzo e la sua valutazione, di questo stavamo parlando, è che la gente sta diventando mezzo scema, poi mi fa le comparazioni col Super Sidric, è uguale il Super Sidric, non cambia niente, io ho già fatto le prove, li ho aperti tutte e due, uno vicino all'altro, perché li ho avuti tutte e due, sono uguali, il Super Sidric l'hanno chiamato così, l'hanno sponsorizzato facendole la sede della capsula cromata, basta, boh, non ha nulla in più, nel modo più assoluto. Sì, infatti così l'hanno fatto per renderlo, diciamo, quando prende la versione lusso di una macchina che ti pone le modanature cromate anziché nere, e quello lì, infatti, l'ho visto anche io aperto, ce l'aveva coso, Riccardino, sono molto simili come coso, l'hanno forse rifinito meglio con questa cromatura, ma come microfono pizzissimo. Bravo, bravo, tu che sei il mestiere, hai detto la cosa giusta, l'hanno cromato chissà cosa per renderlo diverso, ma è uguale, non cambia niente, vai Luca. Infatti io ho detto però anche che per vedere la differenza bisogna metterli tutti e due nella stessa stanza con la stessa persona e con lo stesso amplificazione allo stesso numero, allo stesso volume, provare prima uno e poi l'altro con la stessa persona, visto che è tutto uguale, capsula e circuito, se c'è la diversità si vede, no? Io dico, l'unica cosa è quella, perché dalla voce di uno all'altro cambia. non si può valutare, però io ho ascoltato, ripeto, a Torino e lo considero un grande microfono quello. Ma vuol dire che lui lo tiene più alto, se noi lo regoliamo uguale, la modulazione sua è anche più, c'ha più tonalità grossa, quindi magari lo porta meglio di me, non lo so, ma io penso che con i microfoni mi sono sempre difeso, fidati, io li ho usati tutti e due, uno vicino all'altro, capito? E ho preferito dare il Super Sidere che a Gavino allora, a suo tempo, perché il Tandem più 3 aveva un altro connettore che mi serviva per un'altra radio, che poi a sua volta ho dato la radio con lo stesso micro, col Tandem più 3, tutto lì, altrimenti avrei avuto anche il Super Sidere che, e te l'avrei fatti sentire, li ho già provati, Lu, fidati, con la mia voce non c'è nessun cambio, nulla, se poi senti questo a me e senti un altro con lo stesso microfono è chiaro che cambia, è normale questo, no? Se io ho la possibilità di farti sentire tutte e due, ok, se dovesse capitare, tu mi dici che hai ragione, ma fidati che io queste prove non è adesso a farle, io ho fatto qualsiasi tipo di prova microfonica con tutti i microfoni, con tutti i anche abbinamenti di radio HF, e quindi lo so, è normale, è così, vai Massimiliano. Boh, io il coso, quello Super Siderik, l'ho solo visto, non l'ho mai avuto, io so che diverso da, diciamo, la cromatura, abbassa poi il circuito di amplificazione, capsula, non posso parlare perché io non l'ho mai visto, quindi non posso dire niente, capito? Però comunque sono due buonissimi microfoni. Ma non lo metto in dubbio Massimiliano, però credetemi, se mi volete credere, io le prove le ho già fatte, e quel microfono l'ho dato a Gavino, perché era appunto a 4 ed era già pronto per la sua radio, mentre quello che avevo io era 8, capito? Era 8, perché lo usavo con il 757, ma col GX2 che non c'ho più, che ho venduto, col, siccome non avevo il microfono a tavolo, perché avevo venduto l'MD1B8, non so se l'avevo dato a te, con quella grossa o se l'avevo dato a qualche altro, no, l'avevo dato a Gianni Capri, quel microfono, già il testimone, e quindi avevo messo il Tandem più 3 con le connessioni a 8, e quando ho venduto la radio col Tandem più 3, già con la connessione giusta, capito? Solo per quello, altrimenti potevo averle anche tutte e due, però purtroppo la prova l'ho già fatta, non cambia assolutamente niente, avanti Roberto. Però c'è da dire anche un'altra cosa, tu prendi due microfoni identici, prendiamo, io ti sono sicuro, prendiamo il Tandem mio più 3B e tu prendi il tuo più 3B, c'è possibilità che facciano un suono diverso, perché magari uno ha la capsula un po' più anziana, l'altra è un pochettino più sensibile, eccetera eccetera, allora dice cacchio, questo lo metto a 4 e tira bene, l'altro lo devo mettere a 5, è un altoparlante al contrario la capsula microfonica, per cui c'è sempre una parte in movimento, c'è un campo magnetico, può perdere di coso, di magnetismo, il componente della dietro la capsula, il magnete, per cui qualcosa non succede con gli altoparlanti, io ti faccio vedere gli altoparlanti nuovi di pacca dentro la scatola, li piazzi, poi ne prendi un altro dello stesso altoparlante identico e tu dici cacchio, ma questo suona diverso, e sono identici della stessa marca e di tutto, così può succedere anche con microfoni, è capitato. Che connettore c'ha il tuo microfono? Dove lo usi? In che radio lo usi? Il Tandem più 3 tuo? Te lo faccio sentire subito domani mattina, posso prenderlo e te lo faccio sentire, tra il mio e il tuo, che connessione c'ha, dove lo usi? Io ho la connessione a 4, ce l'ho sul pace, sull'ana 48, e poi a 4 cosa c'è? Mi pare sono quelli, c'ho 4 pure. No, su che radio lo usi? Lascia che sia a 4, anche il Galaxy ce l'ha a 4, io ce li ho tutti a 4, tranne l'Inter che è a 5. Su che radio lo usi tu per vedere se il mio adattatore va bene? Su ANA 48, cioè connessione ANA 48 che ce l'ha uguale sul patch. Perfetto, allora c'ho l'adattatore io, da ANA 48 alla Galaxy, se tu domani mattina me lo dai, io domani sera te lo faccio sentire, capito? Attacco prima il mio, così com'è adesso, poi lo stacco e ti faccio sentire il tuo, e sono convinto che è la stessa modulazione. Sì, no, non sto dicendo, allora, Io il discorso mio è un altro, sicuramente devono essere per logica uguali, però se una capsula è rimasta ferma per tanto tempo o l'altra è più giovane, più nuova, è sempre una parte usurabile la capsula del microfono, per cui col tempo uno magari è rimasto 10 anni fermo, non l'hai mai utilizzato, nuovo, tu vai a provarla e non funziona, dici c'è il culo dalla capsula, oppure l'altro, il tuo, lo usi tutti i giorni e quell'altro lo uso ogni tanto, ma la tua è un po' più gracchiante o cosa, può succedere anche così, non è detto, anche se sono identici i microfoni, che funzionano nello stesso modo, è sempre una parte, c'è un campo magnetico, una bobina e una parte in movimento. Così, vai Massimiliano. Io non l'ho mai forruggiato roba così, quindi io metto la batteria e farete questo Massimiliano, questo capisci a me, questo io l'ho controllato dalla razzetta, ok? E c'ha la capsula originale marcata a Turner, rotonda grande, e tutto il circuito è nuovo, quindi non è stato mai toccato, è originale questo. Meglio. Lo sto dicendo perché, già lo sai, no? Alla Sisa, giusto per capirci e tu. Perciò, e l'altro era uguale, preciso identico, stessa serie, stessi collegamenti, stessa capsula, stessa impedenza, tutto uguale, non cambia niente. Hanno messo sta cromatura, come dice Roberto, per farlo diventare diverso, gli hanno dato un altro nome, capito? Come questo l'hanno chiamato Turner più 3B, che non so cosa vuol dire, l'altro grigio è Turner più 3, senza B e C, e l'altro è chiamato Turner più 3 Super Sideric. Capito? Tutte queste stronzate poi risultano che sono tutti uguali, capito? Tutti uguali. Gaba. Va bene, facciamo che prendere a Luca. Vabbè, è che sono una questione diciamo di estetica alla fine. Ehi, Alu, credimi, te lo sto dicendo, nessuno mi può dimostrare il contrario, l'ho già fatto io le prove, le ho già fatte, ma peccato che non l'ha venduto Gavino Joker quel microfono, ha dato tutto, radio, microfono, eccetera, se no guarda, l'avrei ripreso alla grande, perché anche quello era nuovo, e te avrei fatto sentire la differenza. Ma se un giorno Torino mi fa questa cortesia di proprio il tempo di provarlo, te li faccio sentire tutte e due da qua con la mia voce, sono uguali, Lu, è solo questione di timbrica, credimi, timbrica e estetica. Mi hanno fatto questa cromatura per darle un altro nome, Super Sideric, ok, come il Turner più 3B ha un altro nome ed è nero, tutto nero, e il Turner più 3 grigio e si chiama Turner più 3, basta, tutto lì. Questo è grigio e tu sei cuocomane. Ciao Natalì, quello si chiama Turner più 3 ed è grigio e tu sei cuocomane 2. E io non lo sapevo. Certo che sì che lo sapevo. È così, non venuto da là. Sono grandi microfoni, grandi, come un grande microfono l'SBE, come un grande microfono Shure, come un grande, nonostante siano brutti esteticamente, però ad esempio l'SBE da tavolo è un bellissimo microfono, si assomiglia molto al Turner più 3, è leggermente più basso, c'è una capsula così grande lo stesso, originale, sono microfoni di vecchia data, come il Turner più 2, capito? Sono tutti microfoni che vanno bene perché sono microfoni vecchi, ma non dimentichiamoci che qualità prezzo, l'MB più 4, l'MB più 5 della ZG, sono degli ottimi microfoni perché io ce l'ho nuovo senza essere toccato e funziona benissimo, vai Robè, ciao Natali comunque. Ma lo ZG, ciao Natali, ben sentito, lo ZG secondo me la copiatura povera del Tane, hanno preso la stessa forma, qua hanno butto qualche fesseria per cercare di non farlo uguale per questione di copyright, però già la forma è tutto quanto, se è tutto uguale, si assomiglia o meno al Turner dello ZG, ti hanno messo il PTT diverso, qualche altra fesseria, il circuito di amplificazione però è molto più economico, se tu guardi i componenti uno con l'altro è un'altra musica, però se la cavichi anche lui, diciamo, il Turner è un altro tipo di tipologia di microfono, c'è una capsula molto superiore, però anche lui nel suo piccolo, per quel prezzo non penso che ci sia niente di meglio. Infatti io non vi ho detto qualità prezzo, l'MB più 4 e l'MB più 5 sono degli ottimi microfoni, quando invece parliamo della Turner, che è una delle migliori case costruttrici di microfoni, stiamo parlando di roba diversa, però io ne ho usato tantissimi di Turner, soprattutto il più 2 da tavolo, che ho iniziato proprio con quello, la KB23, splendida modulazione, splendido microfono, grande circuito di preamplificazione, impedenza 600 ohm, non più come il Turner più 3 l'avevano abbassata, tant'è vero che per uscire bene io l'avevo dovuto mettere con Giulio, aveva appunto consigliato lui, l'avevo messo una resistenza a 400, già c'eri anche tu se ti ricordi. Avanti Massimiliano. Positivo, positivo, a te un secondino, riprendo subito, mi devo allontanare 2 minuti. Vai, lo riprendi. Vedi, KK, sì, è così. Vabbè, questo ti piace? Che cosa? Il microfono. Sì, ma questo l'avevo già sentito o un'altra? Questo è lo Shure. Lo Shure è un gran microfono. La torretta anche l'altro giorno esce alla grande. Fratello a prezzare, Clay, attacca al Galaxy, da qui è ricordo. Già zero a rudarmi stai, perché io ce li ho avuti tutti e lo so. Ecco nella salita. Stai rodando Luca. Attacca a quel Galaxy. Oh, errante ci re. Ma non asciuga. Ehi, al Galaxy, si è data al Galaxy quello figlio. Perché io ce li avevo tutti. E la dovevo a rubarne di Cudia, a chi va già avuto rubarne più 3B, e li ho provati, no? Però quello che c'era stava meglio, al Galaxy era lo Shure. Natali, la morte sua dello Shure, lo sai dove è il microfono, che è stata una delle più belle modulazioni che ho mai sentito, col DAC. L'aveva fatto sentire Walter con lo Shure, il DAC, era una cosa spettacolare. Ma Roberto, l'ho fatto sentire anch'io se per questo. Ma con lo Shure? Certo, conosco lo Shure, corrisponde al 500 della Turner. Ma non con lo Shure, il DAC, l'adattamento migliore, ce l'ha con lo Shure. Anche il Galaxy Saturn, se tu gli attacchi lo Shure, cambia musica, si è chiuso con il Zelli, l'ho fatto io la situazione, l'ho provato io, lo so. Ce li ho avuti tutte, e addirittura il Turner più 2, quello celeste, col cavo celeste, lo sai dove andava bene qua, sull'857, una bomba è, dillo a Marco a vedere, si è spaventato. E io, mi piacerà Roberto, l'ho provato il Turner più 2 da tavolo, l'ho provato col capo perché la connessione era proprio per il Kenwood, allora ho dovuto abbassare l'impedenza, mi c'era Roberto con Giulio. Ho dovuto mettere una resistenza nella capsula per farlo scendere a 400 ohm, perché era 600 la capsula. Ed era una favola, andava molto bene, ma stiamo parlando di Turner, non stiamo parlando di ZG. Con ZG c'è questa modulazione barattolosa, a volte cupa, a volte brutta, capito? Però io con la mia modulazione, con le mie corde vocali riesco a correggere anche quella, tanto è vero che io ce l'ho nuovo, e prima di comprare il Turner ho usato quello, ok, e non ho problemi, lo faccio andare bene, non lo so. Questo ragazzo devo portare il cane, sta piovendo a dirotto, ma dimmi Duni a rottura di scatto. Già lo so, è prevista qua anche domani, cacchio. Le scatole piene ne ho questo cane qua. Non vedo l'ora di andarmene qua. E andarmene veramente in campagna in modo che entri esci quando vuole. È una rottura di scatto. Il cane è peggio di un figlio, e lo sai meglio di me tu. È il cane impegnativo, vuole portato. Non è come il gatto. Ma credetemi, quando piove, anche perché lui non fa niente, deve sempre andare nell'erba, perché c'è il porticato, la fa lì, poi la raccolgo, niente da fare, lui deve andare nell'erba, dimmi tu come ti posso portare l'erba che tu cani. Va già bene, fai giurarti. Sta piovendo, Natalia, anche forte qua, che rottura. Però ti conviene andare adesso, Clami, perché più tardi c'è, ho visto l'acqua che scende, un be, c'è l'allerta meteo attiva, hanno messo sul coso, su internet, dalle 9:30 in poi. Io non porto 9:30, non questo orario su, fino alle 8 posso aspettare, poi devo portarlo per forza. C'è il picco verso le 9:30, 10, c'è il picco della... ogni coso di Eva, già si sente anche qua. Ok, oh signori, io adesso vi devo lasciare, dai, buon proseguimento, che vado a mangiarmi qualcosa che mi sta venendo fame. Ci sentiamo magari domani, se passi, grazie, no, quando coincide. Ciao Natalino, ciao Massimiliano, ciao Luca e tutti gli eventuali amici qua sul canale 10. Cuoretti da parte mia, ciao ciao. Ciao Robert, ciao domani. Ah, vabbè. Ciao ciao Romeo, ci sentiamo là. Scusate, mi sono allontanato un attimo. Ciao Romeo, le prese. Beh, così fa tu qua col microfono. Cosa fa? Così fa. Quando schiaccia il microfono, Claudio. Perché si voglio il basso lui? Ma fai radio? No, mi segnala. Ti segnale. Cos'è che farmi il microfono? Lo smetti quando premi. Perché avevo passato poco fa in FM. Perché c'è relè, per forza la sbatte, non sono io che culo la coi, però io schiaccio piano piano perché c'è relè. Guarda Massimiliano, allora abbassa il due, forse avevo abbassato prima. Già ho grido, siamo abbassati la fame, ma è cullato lo strumento. Mi svaria. Asso, nessuno sti cazzo di dirtelo, Hai visto quanti fatti la FM? Deve regolarla, ma anche quella di massa è così. Comunque adesso lo sciure, nessuno deve dire che non è un signor microfono, a parte diciamo l'estetica, la plastica che su di voi. Non ti sono presente che lo sciure, quando è il 500, il Tamer più 2, il Tamer più 3, di qualsiasi tipo, sono i migliori microfoni in assoluto. Però sei d'accordo con Natalino? Beh certo. Che fonte anche il Tamer più 3. Certo, certo. Sì, provate ad attaccarla al Galaxy e dopo mi ha ripulsa. L'ho provato e perché ho fatto le prove che lo so. Io ce le avevo tutte e due, proprio un Tamer più 2, un Tamer più 3, come quello che c'ha Claudio. E lo Shure, ho attaccato lo Shure al coso, al Galaxy, e il migliore era lo Shure. Allora, dove viene Claudio a ritirarsi il suo microfono, di cui ci me lo dà le nocche, posto in connessione, di Galaxy e lo blu, vedete? Vediamo, a me non piace, perché è troppo ingombrante, troppo grande, capito? Se io ti mando la foto del il perception che c'ho dentro l'armadio, è uguale, preciso, identico, alla spalla 500 lo Shure. Stessa cosa, è un bel rasone, non c'è posto a metterlo. Purtroppo è così. Io nel Galaxy Saturn Echo l'avevo attaccato, quello che avevo lì. Ci sono così sempre che sia una modulazione paurosa, quello Shure. Perché io l'ho provato, attacco il danno, ha già attaccato il danno, sia benissimo, subito. Però era superiore lo Shure, sul Galaxy Saturn Echo, come quello che c'è lì. Allora, se sta su convento, la volta che tu mi trovo, tu mi dici, non è uguale che tu dici, è un bel ragione. Ma guarda, lo conosco il coso, l'Expander 500. È un bel ragione, sì, va una base, che è. Però, no, aspetta, Cla, lo Shure, secondo me, come misura di piano, di larghezza, è uguale al Tamer più 3, non all'Expander 500, l'Expander 500 è molto più grande dello Shure, Cla. Ehi, dammi le misure, lo dico subito, ma l'ho già avuto anch'io, l'Expander 500 è molto più largo dello Shure. Ehi, infatti, lo Shure è più stretto. Ma poi lo Shure è come il Tamer più 3, secondo me. Della base io sto parlando, Guarda, questo ti sto mandando io, come è stretto, è uguale alla stessa misura del Tamer più 3, ma è più lungo ancora, ed è tutto in cromato, è bellissimo come microfono, ma è un bel ragione, a me dà la foto. Guarda, l'ho appoggiato sopra al DAC, guarda quanto è largo il DAC e quanto è lungo questo microfono. A me non mi è arrivato niente qua. Ah, me lo tempo, devo ci mandare da là. Vegetta che girendi. Dai, è arrivato adesso. Guarda quanto è grande questo microfono. È lungo, è lungo dietro, sì. Però come larghezza se mi barbezza da un partner. Però è lungo. Appunto, come faccio a mettere un microfono così che arriva dalla base, dallo spazio mi avanza dalla base con tutte queste radio grandi? Non c'è spazio, mi tocca la microfono. Se tu guardi la capsula, guarda, il piantone fino ad arrivare alla capsula è uguale alla spalla del 500, preciso identico. Sale, scende, si ammassa sino a zero, capite? È la stessa cosa. C'è il PTT, a vedere chi sa fare mano a mano, quello tutto nero, quello tutto nero è il PTT con la leva, è bellissimo, ma lo sai quanto è pesante? È bello, sì. Bello, aspetti, faccio la foto. A vedere che ti sta giocando a due, nuovo nuovo. Dico nuovo per l'età che ha, dai. Nuovo nuovo, un po' è comodo, ma anche, capito? C'ha il suo modulometro, l'eco, eccetera, eccetera. Cosa Luca, mi sto vestendo? Ho detto guarda la foto di quello che ti ho mandato, ti ho detto se fai il cambio. No, il cambio Luca, non posso fare il cambio io, che questo me l'hanno regalato, no, non mi va di, capito, assolutamente, non perché il tuo sia meglio o questo peggio, attenzione, ma no, non posso farne il cambio, un regalo che mi hanno fatto, me lo tengo. Non c'ho manco connessioni, non le ho manco messo mai le connessioni, se no te l'avrei dato a mettere le connessioni, capito? Questa è la di una persona che ci tengo tantissimo e quindi me lo tengo come ricordo, capito? Non ti dico chi è, però non è più nell'aria. Ah, no. Rob, aspetta che devo abbassare ancora un po'. Sì. Lu, non te dico balli, ti giù una la rotta, però è antemanno, ed è molto bello, ma bellissimo, non bello, bellissimo. È vera appogaiente il suo tipo di microfono, capito? Però è troppo grande, non puoi mettere qua davanti alle radio, perché ti prende un bel di posto, lo spazio utilizzabile è MB più 5, tranne il più 3, vedi quello delle gay che è stretto, è largo, va bene. L'SBE, quel tipo di microfono lì, capito? Aspetta un secondo, devo subito, mi sta chiamando mia moglie, riprendi Massimiliano. Mi aspetto anche un attimo, vai. Cosa stavi dicendo, Luca? Mi sto vestendo. Ci è rimasto qua? Dai, io sto chiudendo. Ci sentiamo domani lì. E ciao a tutti quelli che sono in ascolto, va. Luca, cosa stavi dicendo? Dai raga, io per il momento stacco, vado a portare il cane. Se ci siete ci sentiamo dopo, ok? Vabbè, gente mala! Hola, hola! Attenzione, dieci! Vabbè, gente mala! Non c'è nessuno? Hola! Massimiliano, buonasera. Buonasera a tu, buonasera a te. Com'è? Bomba, Davvero, ma ti sente lo stacco che hai tu? Sì, ma tu cosa usi, il lock? Se voglio posso utilizzare anche il lock. Io uso solo il lock, il PTT non lo uso quasi mai. Cappa, vabbè, io sto usando il PTT. Provo a usare il lock. Aspetta. Davide, come? Va bene? Benissimo, va, una bomba. Appagato, ma lo porto bene io come modulazione, sì. Sì, la voglia. Andava bene allora, dai. Cappa, va bene la regolazione che abbiamo fatto, sì. Sì, io voglia. Ma appena acceso hai oppure ce l'hai da un po' acceso? No, ce l'ho da un po' acceso, Massimiliano. Con 10 watt sì. Sì, con 10 watt. Va bene tu. Va la grande. Va la grande, sì. Già sono contento, la verità, dai. Tanto lo sapevo che mi andava bene. Ah, c'è bombolino, che... Oi, è beccato, da boccio. Va bene, va bene. Complimenti, ottimo microfono, ottima scelta. Cappa, Comunque sono contento. Uia! Giù, veramente una cosa. Ah, cantare, ma che quindi, bro. giallocco che ti viene meglio. Sì, è proprio cosa c'ha, me ne ho gavendo la verpa. E cosa ti ho trattato? Sì, conferma. Bella radio, no, Massimiliano. Io ho abbassato ancora la potenza del Galaxy e così siamo a posto. Almeno spero non mi senta nessuno in lontananza. Ma sempre attieri qua, in queste opere. Vabbè, ma secondo me anche un pelino in più glielo può dare, secondo me. Se non grida sì, se grida strappa, abbiamo già fatto la prova. Io faccio un vizio di Babbo Dainasso. Come Dainasso? Beh, nel senso che faccio un vizio di prima la voce alta, mi capito? E allora lasciala così, vai. Se no poi le dicono cosa, abbassa, tira e si ceppa. Lasciala così che vai benissimo. Kappa, no, me ne può pure riporti. Quindi la porto abbastanza bene, è vero. Ottimo, tu, alla grande. Non avevo mai provato, la verità. Adesso sei dei nostri, sì, vero Massimiliano? Sì, dei nostri, degli altri, di tutti. Allora, si conferma. Ascolta, il mio segnale è abbassato, Massimiliano. Guarda, va bene. Da 9 a 9:15. Un pochino sì. Sì, prima di 9:20 pieno. Sì, ma va bene, io voglio. No, l'ho abbassata, l'ho messa, se che a 15 watt, l'ho messa a 6 watt. Modulati 7, 8, già va bene, non c'è problema. Non devi stare sempre attaccato a manetta, no? Riservi anche un pochino la radio, dai. Qua sei 9:30, sei, eh. Io già spinge, anche se la metto a 6-7 watt, già spinge lo stesso. Stai arrivando fortissimo, tu, veramente, sono non contento, ma contentissimo. Capito? Lo dico proprio col cuore. Hai fatto una bella scelta, un ottimo microfono, vai alla grande. Kappa, sono contento, la verità, eh. Anche Massimiliano è contento, vero? Cosa? Ho detto, tu contento, sì. Io? Sì, che Antonio è contento. Io sono contentissimo. Kappa, ma te si preoccupate? Catania Bioggia che prendi oggi, gnagno, speriamo che la finisca, domani dici che è ancora peggio. Sì, meglio, denuncio, sì. Com'è lui, come la pensi? Sì, domani è peggio, sì, è vero. Domani è peggio, di lusso. Kappa, va bene, no? Nero sicuro, nero. Infatti, confermo. Uiuia! E comunque, chi ci arriva l'ore di Logoso, di Roma? Non ti si chiama? Ma chi ci arriva il cinesi vanno bene? Kappa. L'alimentatore cinese fanno bene, e cioè? Quello che ho io, l'alimentatore cinese, è la stragrande, non lo posso, manca appena. No, che va bene. Guarda tu adesso che ho messo il power tutta manetta, prima ce l'aveva a 6 watt, adesso è a 15 watt, guarda, salito è per appena. Si è a 9:40 qua. Allora già va bene, non c'è problema. E da te Massimiliano? Salito appena, eh? Così lo lascio regolato così, a 10 watt. Massimiliano, e dove è Massimiliano? Era qua. Non era qua, o è andato via? Qua sono. Già vero, cazzo lui, mi serve diventare più rincoglionito di te. Se ho sentito la voce, ho detto Massimiliano, l'ho messo al massimo il power, così bene va. Va bene, ma non c'è bisogno, no, qua. Cioè, non è detto che va mai forte, arrivi mai forte a 9:20, no. Va bene, ma andava bene anche prima, va bene, a voglia. Ehi, qua, aspetta. Allora, lo sto regolando. Ecco qua. Non lo metto com'era, no? Senti, in bagno, allora, era 10 watt. Sto provando con quello strumento là, mi capito? sto provando con lo strumento alto. Io ci vado, a posto? Allora, posso fare una cantata come ti c'è lentano, ga. Allora, tu, allora puoi cantare, ah? Davvero, non mi piglia in mano, buono, tu. Ma tu dopo ti devo mandare un messaggio, anzi ti chiamo direttamente dopo, ok? Che mi serve un'informazione dettagliata. Ok, tu telefonami, non ti preoccupare. Va bene, ok allora. Comunque ti accendo la grande, proprio bene bene. Ehi capo, mandatemi una registrazione, cavolo. A vedere com'è, che lo voglio intendere, io non vedrei sino che frusciare tutto. Ma tu lo trovi di fa, tu la fa Luca, beh Luca ci sei. Ehi, capo, a chi è che me la fa una registrazione, che voglio sentire com'è, se a chi è che non posso sentire nulla che fruscia canto me. Forse è meglio quello di Massimiliano, il telefono mio è una specie di uno schifo. Prenditi il re di mira la prossima volta, te lo consiglio io, se non sbagli. Ma sei Antu, fai un passaggio che ti registro. Ma te, Massimiliano, mi senti, capa? Com'è? Tutto a posto. Sì, stavo dicendo, vedi quel tipo di telefono lì, verrai che non sbagli, con la ricarica rapida e non te ne pentirai. E adesso vediamo quanto dai, anche quello, adesso ho fatto il cambio di cose, di compagnia, da T mi sono passato a Vodafone perché dovevo farlo per forza, è scaduto il contratto della TIM, non era attestato a me, era attestato alla società dove lavoravo prima, il telefono me l'hanno regalato, però mi hanno detto di cambiare appunto il contratto. Adesso è attestato a me, però mi hanno cambiato anche il numero, spero domani di recuperare il numero e andare a Vodafone, se no vi devo mandare il numero nuovo a tutti, rifare tutto su WhatsApp, una rottura di palle. No, già te lo fanno già. Vabbè, adesso vediamo, poi mi è arrivato un sms alla Vodafone, suo nuovo numero a partire dal giorno 16 è 347, che se va giù 339 a chi mi ha ribunito 347, io non intratto il suo numero. Avanti, ma ci vediamo, fai sentire la registrazione a Antonio, qua arrivi una schioppettata tu, sia di segnale che di radio, ma non avevo dubbi. Luca. Se non ti riesce che arriva di lusso. Ah, io ve l'ho detto, 20 cm dal microfono, non ti avvicinare, praticamente parla piano e tranquillo, Ghiso percepisce anche le mosche. Vabbè Luca, ci sei. Vabbè, forse Luca è imbagliato. Anda Max, vabbè a tu, ascoltate ci sei. Sì. Allora, sì, mi sono ascoltato. Vabbè. Un attimo di piacco per me il telefono. Vabbè, avanti, bambola. Cappa, dai. Stavo dicendo, che mi dovevi telefonare, mi dovevi. Telefonami all'altro, al 320. 88, quello lì telefonami. Poi ho io di quel numero, non c'è uno solo, ora vado lì che buco. Non vedrai. Non ce l'ho, io ne ho uno solo, ti ho detto. Aspetta che te lo mando. Tu quello di WhatsApp ce l'hai? Ma con quello di WhatsApp? Vabbè, tutti spariti siete. Siete tutti spariti? Pronto? Io mi sto allontanando, sto scendendo giù la faccia male, va. Ci aggiorniamo a motozzato, ok? E a Massimi, buonasera, saluto a tutti, dai, anch'io allora rimango in quel ciao ciao. Eia! Ciao a tutti, dai, buonasera anche a voi, ce la fate, ce l'avete fatta, ciao. Eia, ciao Massimiliano, ci sentiamo. Ciao a tutti, ci aggiorniamo dopo, dai, che è ancora vado dall'altra parte a cenare e poi già sono qua, ciao ciao. Eia. Non pensavo a chi sia così, Hai visto? Ah? Sei contento? Goditela veramente di cuore. Quello è un bel microfono e lo puoi usare tranquillamente, così, sereno, lì sono difetti non te ne fai, tranquillo. Beh, si vede che è buono, non è ghiddo, no. Quello signor microfono, tu stai scherzando. va bene per quella radio e non hai problemi. Non gridare, stai un pochino distante e fa il suo lavoro. Capito? Dai, ci aggiorniamo dopo. Ok, ci aggiorniamo dopo, dai. E vado a mangiare un boccone, dai, poi già sono qua. Ok, ciao. Ti piace questa modulazione, sì? Alla grande, e quando ti arriva il tuo Oca? Mia ancora lavorazione, perché stava finendo dei lavori e quindi ci siamo sentiti anche stamattina. Penso a terminarlo e tutto, tenerlo sotto controllo. Penso che se ne vada per fine mese, Anto, sicuramente. Chi fuori mare? Questo è un bravo tecnico, no, non te ne manda. Il 140 l'ha tenuto 2 settimane. Capito? E non c'era da fare tutto quello che c'è da fare qua, perché qua c'è da cambiare delle spinette, c'è da cambiare alcuni componenti che li ha trovati in perdita, e la radio è vecchia, quindi la sto mettendo proprio, la sto rifacendo tutta a controllare, ho detto di mettere tutto quello che ci vuole. E quindi poi la terrà al banco, la proverà, eccetera, poi me la manderà. Ma non ne ho problemi, c'ho questo, c'ho già i baracchini, no? Poi quella lì anche se arriva io la uso poco lo stesso. Non mi interessa, ormai il baracchino mio è questo, no? Non mi interessa più gli HFM. Tanto. Vabbè, è bello anche usarlo, dai. No, beh, sicuramente come facevo con l'altra, col 140. Già la uso ogni tanto, ma accesa è sempre accesa, tranquillo, non c'è problema, però già le uso il baracchino, io no, non mi interessa, già va bene lo stesso, fare 2 chiacchiere, a voglia. A voglia, sì, e fai bene, cioè, e anche quelle vogliamo usare, hai comparati, dai, vuole trattare di burbice. Beh, ne ho 7 di baracchini di base, quindi li sto facendo girare più o meno. Uso molto di più il gas perché è molto più selettiva, eccetera, più completa, però anche gli altri già funzionano bene. 430 quando arriva lo accendo, lo metto lì come era il 140, adesso non c'ho più niente, neanche il 140, quindi infatti c'è lo spazio lì, lo spazio suo, c'è l'alimentatore, la colonnina lì, serve da una parte. Quando arrivi arrivi, intorno, me la futti nuda, già va bene così. Se ci sentiamo va bene, che problema c'è? Dai, vado a cenare, Anto, e poi già sono qua, ok? Ok, ci sentiamo. Aspetta, prima di andare via, Claudio, che ho finito di montare il microfono, come sta andando? Aspetta, io ti sento bene, ti sento. Ottimo, quindi non è né troppo bassa né troppo alta. Claudio, per te? Quindi non ce l'avevi avuta tu la modulazione spintissima. Va bene, dai. Ok, va bene. L'importante è che si senta bene, anche se non è forte. Anzi, non deve essere forte. Perché il microfono che ho costruito, c'avevo una carcassa, l'ho costruito di sana pianta, quindi vedo che funziona. Funziona, sì, va benissimo, va. Stavo dicendo. E va bene, mi senti? Sì, ti sento bene, ma non c'era bisogno di attaccare il lineare. Lineare? Ma stai scherzando, sai? Sì, sei diventato nuove... No, aspetta, ero io inclinato. Riprova. Vado a vedere com'è. 9,25. Non va bene. Beh, anche troppo. Anche troppo, Anto. Dimmi Gianfra, scusa che mi sono allontanato un secondo, cosa volevi, qualche controllo? Sì Claudio, ho finito di montarmi il microfono che avevo progettato, microfono normale, volevo sapere se andava tutto bene, se insomma, per essere un microfono normale volevo sapere se sta andando come un microfono normale, oppure di meno, oppure di più, oppure in mezzo. Scegli tu. No, sta andando come microfono normale e anche leggermente di più. Ottima radio, 5, bella presente, tranquillo e sereno, segnale il tuo, ok? Io farò, vi lascio che devo andare a cenare, dai. Ciao a tutti e due e buona serata. Antonio sta arrivando veramente molto molto bene. Sono contentissimo perché lo merita, ha fatto un sacco di sacrifici per mettere tutto a posto e sono contento. Ciao. qui, tanto sono contentissimo, sta arrivando un segnalone 9.25 con picchi positivi a quasi più 30, la radio super 5, ok? Ci aggiorniamo dopo, ciao a tutte e due. A dopo Claudio. Antonio, ma cosa hai fatto? Hai cambiato antenna? Sopra la Ringo, Hai cambiato apparato, allora? Sì. Ah, ecco, no, perché il segnale è molto forte, comunque. Non c'è paragone rispetto a prima, ma soprattutto la radio anche migliorata, eccetera, eccetera. Quindi vai abbastanza bene. Lascia tutto così, non toccare niente. Guarda, forse in te non la spegnerei neanche la radio, ci metterei sopra una coperta, così rimane sempre accesa e nessuno la tocca. Lo so. Va bene, no? Va benissimo qua. No, è sempre quella l'antenna, mica la cambio, va bene, cosa me ne frega di cambiare l'antenna. Ma grazie a Dio, non mi ha mai dato noia, la verità. L'altra un pochettino, si è attaccato un pezzo, ma se la aggiusti funziona bene lo stesso anche quella. Questa va tra grande. Sì, va bene comunque, ti confermo che va bene. Vuoi provare anche, cosa c'ha l'FM? La banda laterale, quello che vuoi, prova l'FM, vediamo un po', così anche tu mi dici come sto andando. Capo, aspetta che lo devo cercare. Tanto l'FM dovrebbe avere un tasto, un pulsante. Antonio? Allora, anche. Aspetta un attimo, che cazzo, mi sono intreppato, vai, non ammara. Come ora, andiamo, lo muori. Tanto sei di nuovo in AM, adesso ti risento. Cate sei intrippato. Aspetta un attimo. Andiamo, vai, cazza, lo muori, cazza. Anda a muovere, cazza, già mi lasci, cazza. E beh, già la sinistra, buona, Non mi hai piccata ancora. Tanto mi stanno chiamando, dai, ci sentiamo più tardi. Appesa, piccata, stagionata e venduta. Io ti mi dispiace, dito, poi ho preso le lucine, è buona, mi piace un sacco con la salsiccia, ho preso anche la pizza, guarda, alla fine del mondo. Sono contento per te. Se ti offesa, No, non mi offendo, sto tranquillo. Chiara. Ah, sto sbagliato un bel, ho fatto la pizza, uia, c'ho un po' di fame. Cribato il gioco. Crepato, poi ci avevo crepato una bottiglia di bracchetto, buona reddo, No. Anche io l'ho ordinata, mi sta arrivando. No, io prendo le basi dall'Euro Speed, mi metto condimenti, ma veramente buona, guarda, buona, proprio gustosa. Sì, no, io, vabbè, oggi non avevo voglia di farla, e quindi ne ho ordinato 4. Per me e per i miei componenti. Adesso vediamo come esce. Vai FM a vedere. Chi era questo tutto? Come sono male? Faccio male io. Perché siamo in AM? Ma sento sbattere, ho fatto uno sbaglio io. Lo so, per quanto ho detto un po', ciao. Kappa, buonasera. Buona. Ho fatto una capolata io, hai capito? Dai, se vuoi provare in FM, prova, io. Aspetta, devo entrare. Io prova. Prova tu. Che sei parito, tu? Io, bene, sto andando, Luca. Sì, benissimo, ti io. Lo stesso. Ma volevo provare Antonio in FM. Che vuole che dica? Ma te ne portano a casa nei pizzetti? Sì. Sto prendendo da Graziano, un amico dalla Teorcia, vuole di pizza. Sono buone, però non le trovo per il mio. Non c'è un come si dice, non... non lo so, per me non... ma la bocca a me non andare in me. Luca, come tutte le cose, gusti e colori non si discutono, quindi io lo prendo lui perché, primo perché lo conosco da tanti anni, secondo perché è pulito, terzo perché a me piacciono, e ci sono anche altri componenti, ho provato anche a cambiare, ma non... boh, la ruota è buona, stesso non ne fa, consegna a domicilio, qui... tocca andare io, non gli ho voglia, me lo faccio portare a casa. Super pulito, non pulito, super pulito. Vabbè, a gusti, dai. Tu volevo dire una cosa prima, vaffanculo, se me la metto un bimbo. Hola. Vabbè, dai, passa la M, che a me le ferme non mi piace, tanto Antonio non riesce a, non riesce a entrare. Guarda a vedere com'è. Come scomane le femme? Ma mica non sei le femme, a tu. Scomane le femme con la radio. Beh, io lo sentivo bene, non ho toccato qualcosa che non dovevo toccare, capito? Capito. Vabbè, fa parte della radio, hai qualche rumore di vetro, ma quello non disturba. Lo che si trattende di due si può trattendere io, né più né meno. Non so, io sto usando un Lincoln, 120 canali e niente di particolare, quindi... vabbè. Io non so cosa tu stia utilizzando. Certo che se un Kenwood non è la tua radio, non è la radio di Kenwood. Convinto, sì. No, magari stai utilizzando il Kenwood, ma non stai uscendo bene come dovresti uscire. E poi, se sei convinto tu, io sono contento per te. Vabbè, non sto uscendo bene. Ciao, avanti. Aspetta un attimino, vada. Capo, mi senti? Sì, ma non devi urlare con questa radio, non è che ti devi mettere a attaccare al microfono e quant'altro, sono sporchi la radio e basta. Ho il vizio di radio video, sono un po' di asso, gioco. Allora, non è cosa che fa per te. Vabbè, dai, comunque, va bene, va bene. Ho già come un ziasso, è un macello, devo regolarmi un pochettino la voce, perché ho il vizio di stare, cioè di stare sempre con la voce ziassa, sì, ma a volte urlare peggiora, come io, che ho questo baiame casalingo, non è che sono troppi rumori che danno fastidio alla radio, quindi anche io devo dire la mia, non è perfetta, perché devi essere in una sala tutta tua, senza rumori, senza disturbi, allora fai la tua moderazione rilassata e si fa la moderazione come meglio credi tu. Va bene. Lo so, tico, io baro sempre, c'è proprio mancato baro. No, ma già parlo più peccato, dai, sono anche lontano dal microfono, dai. Vabbè, dai, mi devo spostare, che sto aspettando le cifre, quindi devo guardare quando arriva, perché sennò questo qua passa dritto. Ah, che subizio va? No, perché nel viottolo non sa chi è, quindi molte volte si sbaglia, esce, va nell'ultimo, poi ritorna indietro, capito? Cioè, la strada è chiusa, quindi da qua non può uscire se entra. Maria, vai, zio, si sa mai che... però ti deve chiamare al telefono, non devi passare dritto. Non si sa mai che ti sa... che c'è in mare, Ghizzo. No, ho detto che la strada mia è chiusa, ci siamo in cinque qua. L'oltre non va, capito, si ferma, arriva all'ultima casa e poi deve tornare indietro per forza per uscire dalla strada. È proprio stata rifatta questo. Ho capito. Ma non ti chiama al telefono? Sì. Quando entro al cancello mi chiama. Sai, devo uscire, aprire il cancello, sono già chiuso, porca miseria. Vabbè, piano. La vita la puoi mangiare, allora adesso bisogna fare il sacrificio. Ciao, guarda. Ciao, Maria. se ci sei ancora, ci si sente più tardi. Ciao, ciao, a più tardi se coincide. Ehi, ciao Luca. Ehi, dai, anch'io sono arrivato il soggiorno, sono un cracco muscolo. Non muscolo, di più. A domani ragazzi, ma acceleriamo tutto. Ciao, ciao Antonio, ciao Tino. Ciao. Bene, mi senti tu? Una bomba Anto, perfetto. Va bene allora, va. Quindi ti sei cucchendi? Allora, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Hola chicos.